Voci di piccola impresa, idee anticrisi di Anna Marino. Benvenuti a Voci di piccola impresa, idee anticrisi. Oggi puntata speciale, straripante di storie, dedicata alla fiera delle startup che si terrà il lunedì 17 giugno presso la sede del Sole 24 Ore in via Monte Rosa 91 a Milano. Powered by Radio 24 e Nova, in collaborazione con la Business School del Sole 24 Ore, Startupami e Startup Business. Solo i migliori 100 parteciperanno all'evento, basta iscriversi sul sito fieradelestartup.com. La formula della fiera prevede l'assegnazione gratis di uno spazio limitato, 3x2 metri quadri, ai partecipanti, i quali si devono portare fisicamente, cioè a mano, e allestire il proprio stand o baracchino sotto ombrelloni colorati. In attesa di vedere dal vivo gli startupari, abbiamo scelto alcune storie per raccontarvi questo mondo nascente di idee anticrisi che stanno cambiando l'economia. Ricordatevi questa parola, cambiare. Oggi tocca alle idee per il tempo libero, la prossima volta parleremo di idee per il business. Sport Boom è un aggregatore di eventi, corsi sportivi. Ci aiuta a cercare il centro sportivo più vicino a noi, scegliendo tra più di 200 sport e oltre 20.000 strutture. Inoltre si possono trovare centinaia di offerte sportive, coinvolgendo gli amici si risparmia. Ci spiega come Alessandro Braga. L'idea è nata essenzialmente dall'amicizia tra me e gli altri due soci fondatori, Michele Leone, perché ci mancava un po' uno strumento nello stress della vita lavorativa, e quindi abbiamo pensato a un tool che permettesse di, come dire, agevolare il processo di scegliere qualcosa da fare di divertente, bello, pagante e coinvolgere i propri amici. Su Sportboom infatti oggi si trovano cose di ampissimo genere, dalla serata in go-kart, al bowling, fino al corso di fit cross in palestra. Quello che vi ha aiutato è stato importante, perché bisogna capire come si arriva dall'idea alla realizzazione e come siete arrivati poi anche alla fiera. Io citerei tre cose soprattutto. In primis c'è stato un investitore industriale che ha creduto in noi e nel progetto fin dall'inizio, che ci ha quindi accompagnato all'inizio con quel classico piccolo aiuto che però ti permette di lasciare un altro lavoro con serenità. Quindi abbiamo avuto un ufficio fin da subito e abbiamo potuto dare operatività al progetto fin dal momento zero. Adesso si è tramutata comunque in un investitore sul progetto, un investimento soprattutto pubblicitario. La seconda cosa che ti posso dire ci ha aiutato molto è sicuramente il team, e quindi a noi tre soci fondatori ci sono poi aggiunti altri tre soci di un'altra startup. Abbiamo fatto una fusione, abbiamo altre tre persone, quindi siamo in nove in totale a lavorare. E il terzo aiuto? Il terzo aiuto, diciamo che ti cito l'ecosistema italiano delle startup, piccolino e ci prova, come dire, però ci sono tante persone che hanno creatività, voglia di fare, idee che non si danno per vinte, c'è tanto entusiasmo, poche lamentele. Perché avete scelto la fiera delle startup? Tanto un momento sicuramente di confronto fondamentale, sia con potenziali investitori, sia con altre realtà. Poi perché comunque ci stiamo affacciando verso l'idea di cercare un investimento istituzionale. Voi vi rivolgete crescendo anche ad altri, oltre che agli sportivi, alle strutture, come? In due modi, possono sia profilare il loro spazio, considera che abbiamo più di 20.000 strutture sportive presenti su Sportboom, e possono anche direttamente vendere online le proprie proposte, quindi che sia un corso, un abbonamento, una serata in go-kart con una discesa in rafting, insomma possono proprio fare e-commerce, il tutto legato a un sistema social integrato a Facebook, per cui se raccogli un certo numero di adesioni per fare la discesa in rafting, questa viene a costare molto meno per tutti. Quindi l'idea è proprio di dare convenienza al fare sport con i propri amici. Yumpa, social commerce di attività per il tempo libero. Trova, scegli e partecipa ai tuoi eventi preferiti. Basta registrarsi per avere accesso alla piattaforma di eventi. Yumpa ti suggerisce cosa fare in base a dove sei e ai tuoi gusti, con possibilità di acquisto dei biglietti. Massimo Mauri. Yumpa nasce per rivoluzionare il tempo libero, nel senso che tanti di noi, tutti, spesso sprechiamo troppo tempo libero senza sapere bene che cosa fare, o partecipando casualmente ad eventi e attività che magari non ci interessano fino in fondo. E quindi Yumpa nasce proprio per questo, per fare in modo che tutti possano sfruttare al meglio il loro tempo libero partecipando ad attività che siano realmente interessanti. Come è venuta in mente l'idea? Intanto che tornavo con dei miei amici da una giornata di prova di parapendio, che avevo casualmente sentito da un vicino di treno che ne parlava con un suo amico. Tornando da questo questa giornata mi chiedevano come avessi fatto a sapere. Ci è venuto in mente di costruire un sito. Però per metterla in piedi ci è voluto aiuto, struttura, eccetera. Allora, dall'idea alla messa in opera sono passati più di 2 anni. Ho potuto utilizzare l'esperienza che ho fatto alla business school del Sole 24 Ore per progettare un business plan, per capire come dovevo organizzare il lavoro e per capire quali risorse, oltre alla mia, servivano per iniziare questa avventura. Il capitale è arrivato in parte nostro, quindi risorse dei soci che hanno fondato la startup, e in parte abbiamo ottenuto un finanziamento partecipando a un bando di concorso dei giovani di Confindustria. Poi siamo arrivati a questo punto in cui abbiamo iniziato già a fatturare. Fatturate quanto? E poi mi dite anche perché la scelta della fiera delle startup? Per ovviamente avere più occasioni possibili di farsi conoscere, di avere finanziamenti, investitori. Ma ti può dare i consigli giusti e le critiche soprattutto giuste per farti capire dove migliorare. Nel tempo il nostro modello di business è cambiato alcune volte, abbiamo iniziato a fatturare dall'inizio di quest'anno alcune migliaia di euro al mese, riusciamo già a fatturarle. Il nostro modello di business prevede come clienti chi? Noi siamo una piattaforma, facciamo incontrare chi vuole partecipare agli eventi e chi questi eventi li organizza. Quindi siamo proprio un tramite, una sorta di eBay delle cose che accadono. Il secondo invece sono degli abbonamenti per avere visibilità su tutti i nostri canali. Noi siamo portale, blog, app, newsletter e social. Il terzo canale è quando diventiamo media partner di grandi eventi, con degli sponsor facciamo dei progetti di comunicazione ad hoc. MomsontheRun.it, un sito web che suggerisce idee, propone itinerari, organizza viaggi e vacanze personalizzati e a misura di bambino da 0 a 12 anni. A differenza dei blog amatoriali e delle agenzie generaliste, Moms on the Run aiuta in tutte le fasi caratteristiche dell'acquisto di un viaggio. Ariela Caglio. Il giorno dell'illuminazione risale a circa un annetto fa, dopo che Veronica, una delle co-founder di Moms on the Run, si era messa in testa di partire con sua figlia di 5 anni per un viaggio in Sud America, addirittura voleva fare la Panamericana. Veronica non ha trovato né online né offline alcun operatore con l'esperienza e quella sensibilità speciale che servono per trasformare un viaggio in un'avventura a misura di bambino e quindi in un piacere per tutta la famiglia. Tant'è che il claim di Moms on the Run è diventato poi il piacere di viaggiare con i bambini. La domanda c'era, ma voi avete messo in piedi un'offerta anche in Italia, soprattutto in Italia o anche all'estero? Soprattutto in Italia, perché noi ci siamo resi conto di fatto che in Italia non esisteva niente del genere prima di Moms on the Run. Quindi, a differenza dei blog amatoriali, che di fatto danno consigli e recensiscono mete, e a differenza delle agenzie generaliste online che invece danno solo la possibilità di prenotare voli o prenotare hotel senza dare consigli mirati per le famiglie, Moms on the Run presidia tutte le fasi caratteristiche dell'acquisto di un viaggio, quindi dal sogno alla raccolta di informazioni all'organizzazione e soprattutto alla prenotazione. Tant'è che di fatto le nostre proposte nascono dall'esperienza diretta di un network di mamme viaggiatrici e di local in tutto il mondo. L'idea nasce da 3 mamme e di fatto siamo noi 3 co-founder che abbiamo messo in piedi quest'idea, che è nata ed è cresciuta grazie alla nostra target audience, nel senso che un punto di forza di Moms on the Run è quello di essere un sito da mamma, quindi con una target audience ben definita, che sono le digital moms. Quante sono le digital moms in Italia? Circa 4 milioni, il 90% di queste digital mom dichiarano di fare acquisti online e dichiarano di investire il 20% del budget familiare, e di fatto il mercato delle digital moms e dei servizi online per i genitori è un mercato assolutamente promettente. Certo, da non sottovalutare, soprattutto in tempi di crisi, ovviamente, e non diciamo pensare che sia semplicemente un settore, mentre in realtà è un mercato molto allargato. Allora, capitale, sì. Strutture, chi vi ha insegnato a diciamo utilizzare il mezzo internet? Erano competenze che già possedevamo, abbiamo un team fortunatamente che mette insieme competenze che hanno a che fare col mondo della comunicazione, col mondo del giornalismo e col mondo dei numeri, perché io stessa insegno programmazione e controllo. E la Fiera delle Startup? Siamo venuti a conoscenza della Fiera delle Startup, ospitata da Sole 24 Ore, grazie al passaparola fra startupper che ci hanno raccontato il successo della scorsa edizione. Per noi sarà sicuramente un'importante occasione di visibilità. Diciamolo, le Moms on the Run sono alla ricerca del loro angelo. Presso, a Milano, a pochi passi dall'Arco della Pace, è una startup non web. È il primo locale al mondo progettato e arredato come la casa che sogni, a tua disposizione per il tempo che vuoi, colazione, pranzo o cena. Claudio Garosci. L'illuminazione c'è stata esattamente 2 anni fa. Stavamo guardando Zelig. Zelig è la trasmissione che ha il più alto share della televisione italiana e che è programmato su una rete commerciale, ed era programmato il venerdì sera, e ci siamo chiesti come mai una televisione commerciale decidesse di programmare il proprio cavallo di battaglia il venerdì sera, quando la gente, se può, esce di casa. E la risposta che ci siamo dati è che probabilmente la gente, se può, non esce di casa, perché la casa è un luogo più confortevole, più bello, dove ci sono più possibilità che non nel cosiddetto fuori casa, e ovviamente costa anche di meno. Quindi da lì ci siamo detti: dovrebbe esistere un ristorante pensato come una casa e con tutti i comfort che ha una bella casa. Questa idea è un'idea anticrisi. Chi vi ha aiutato però a metterla in piedi? In primo luogo le aziende. I nostri partner principali sono stati i fornitori, che ci hanno sostenuto nella fase di startup, mettendo a disposizione tutto quello che arreda il locale e che ha rappresentato un grosso aiuto per noi. Poi credo di poter affermare che noi siamo un esempio abbastanza raro di sostegno positivo da parte delle istituzioni ad una startup, nel senso che abbiamo trovato un grande appoggio da parte della Camera di Commercio di Milano, da parte di Assolombarda tramite il gruppo Giovani Imprenditori, e grazie a Banca Popolare di Milano che attraverso i Confidi ci ha permesso di accedere a quel credito che è tanto difficile da ottenere per dei giovani imprenditori. Questo è il modo di superare gli ostacoli. Poi c'è anche il modo di farsi conoscere. Perché avete scelto la Fiera delle Startup? Abbiamo partecipato anche l'anno scorso alla prima edizione, e proprio lì abbiamo trovato il nostro primo investitore, un angel che è entrato nell'equity, e quest'anno ci ritorniamo perché vogliamo fare il salto di qualità, cerchiamo investitori più strutturati che ci possano permettere di internazionalizzare il format e replicare il modello. Quanto costa il tempo e che cosa possono fare lì, diciamo, i vostri clienti? La tariffa è oraria, i clienti, il pubblico paga a seconda di quanto si ferma, e i prezzi variano più o meno da 16 euro a testa per 3 o 4 ore fino a un massimo di 30-35 euro a testa, a seconda appunto di quanto si fermano e dello spazio che decidono di occupare. Quali spazi ci sono? La location è divisa in 3 parti, si chiamano case. Esiste una casa più piccola, cosiddetta casa urban, una casa crossover che è media e ha un allestimento diverso, e una casa luxury che è molto più grande, molto più, insomma, elegante, con dei prodotti molto più ricercati e più prestigiosi. Queste le storie di oggi, ma se volete ascoltare le precedenti o scriverci, Voci di Piccole Imprese su Twitter con l'account @vocipmiradio24 con 24 in numero, su Facebook alla pagina Voci di Piccola Impresa, il blog è su www.radio24.it. Appuntamento allora il 17 giugno con la Fiera delle Startup e alla prossima puntata con le storie degli startuppari con le loro idee per il business. Un saluto da Anna Marino.